contemplare il pubblico di una storia mai vissuta, lo specchio di un ricordo tuo che non tornerà ma riflettere. Persone sogno, ma non è sete di avventura, anche se ridi poco, non hai bisogno di fortuna, al sole di un lavoro che ti asciughi la fatica. Abbiamo perso troppo tempo. Nell'universo della vita, o di essere attorno.